Okay, so we are here with Hagen from the No Border Network, and so Hagen, just tell us what's going on for the 2nd of April in Europe. Yeah, you know, it's Lei, Hagen della rete No Border, cosa succederà il 2 aprile a livello europeo? Quali azioni avranno luogo? Cosa insomma si organizzerà? Hagen ci dice che comunque la giornata del 2 aprile è stata organizzata dopo l'incontro che si è fatto a Londra del Social Forum europeo e è stata organizzata da vari gruppi antirazzisti e da diversi gruppi che sostengono le lotte per i migranti e per i rifugiati. È una giornata di azioni decentralizzate in tutta Europa per la libertà di movimento, il diritto di residenza e contro i CPT. Si svolgeranno azioni in tutta Europa, appunto in tantissime città, ricordiamo quelle tedesche, che le più importanti sono quelle di Monaco e di Brandenburg, dove a Brandenburg appunto si andrà sotto il centro di detenzione, e tantissime altre azioni invece avranno luogo a Londra, in Grecia, in Italia, in Spagna, insomma in tantissimi paesi europei. Non solo azioni contro CPT, ma anche presidi e manifestazioni di fronte agli uffici di rappresentanza di istituzioni europee che si occupano di migranti. La seconda domanda invece verteva di più sull'importanza di avere una giornata di mobilitazione a livello europeo, quindi questo dato di essere riusciti a creare una rete che potesse mobilitare su un tema così importante a livello europeo. Hagen ci risponde che l'armonizzazione delle politiche sui migranti ha un livello europeo. Non si può parlare di CPT o di permessi di soggiorno senza appunto toccare l'Europa, perché le politiche sono sempre di più uniformi, sono sempre di più comuni a tutti i paesi europei, senza parlare poi anche dell'uniformità che si è avuta per quanto riguarda le leggi che regolano il controllo delle frontiere, le impronte digitali su i permessi di soggiorno, insomma una sempre maggiore e crescente armonizzazione delle politiche migratorie. Per questo la rete No Border ha realizzato un film che appunto si può trovare sul sito noborder.org, che si chiama No Lager Nowhere, e questo film è stato creato appunto per mettere insieme le diverse esperienze che a livello europeo hanno lottato contro i centri di detenzione, hanno lottato per i diritti dei migranti, e in modo da poter condividere e comunque far circolare esperienze positive che si sono avute a livello europeo. L'ultima domanda, quali sono appunto le connessioni tra Euromay Day e 2 aprile? La riunione di Parigi e la riunione di Berlino hanno fatto sì che queste due date fossero connesse, fossero insieme e che portassero dei contenuti comuni. Su questo Hagen ci fa due distinzioni, parla di due direzioni. Prima il primo termine che lui usa come migration management, cioè la gestione dell'immigrazione, in cui le politiche europee non sono solo di esclusione, ma sicuramente di sfruttamento del lavoro migrante. E la seconda invece, in cui lui ci tiene a precisare che una discussione avuta anche attraverso gruppi tedeschi non declina la precarietà nell'ambito del lavoro, ma va al di là, nel senso che la precarietà è una cosa che viene percepita su tutti i livelli della vita, insomma, quindi non si può parlare di precarietà e inserirla nella categoria esclusivamente del lavoro. Quindi sottolineava appunto la ricchezza che porta questo aver organizzato l'Euromay Day del 1° maggio e questo 2 aprile con dei temi e delle riflessioni comuni che vanno in questa direzione. European politics concerning migration is not only exclusion, it's one hand exclusion, this border regimes and so on, but on the other hand it's exploitation, it is feeding the labor markets, the European labor markets with cheap labor, mostly migrant labor. And so you have this migration management means a